goccia il mare. Ti amerò come i raggi il sole. Ti amerò come i pittori la luce. Ti amerò sia in guerra sia in pace. Ti amerò nel buio cielo degli umidi orizzonti. Ti amerò sotto la pioggia, brucerò per te tramonti, affinché tu possa avere caldo nel freddo delle correnti. Ti amerò tra gli abissi, tra i venti. Ti amerò perché ti ho amato in un'altra vita. Tu eri stella, io viandante, io la tua camicia. Ti amerò anche se dovessi soffrire. Ti amerò, è con te che voglio stare. Ti amerò perché ogni notte ha bisogno della sua luna. Ti amerò perché tu sei il sangue della mia vena. Ti amerò a mezzogiorno nei boulevard di Parigi. Ti amerò perché tu sei la luce delle mie luci. Ti amerò perché l'ho scritto nella sabbia del mio deserto. Quando perdi tutto te stesso, quello che conta ti resta addosso. Ti amerò che amore unisce chi l'ha cercato. Ed io in questo mondo l'ho trovato, l'ho trovato. Ti amerò perché ogni notte ha bisogno della sua luna. Ti amerò perché tu sei il sangue della mia vena. Ti amerò a mezzogiorno nei boulevard di Parigi. Ti amerò perché tu sei la luce delle mie luci.